Già la ripresa, diciamo, dopo il primo lockdown nel 2020 aveva visto ben due incidenti, di cui uno mortale solo nel comune di Bologna e l'altro aveva lasciato il pedone gravemente ferito. In questo caso erano due pedoni su attraversamenti pedonali, sulle strisce, e in realtà in tutta la città metropolitana tra il 2020 e il 2021 sono morte 6 persone sugli attraversamenti. In questo caso, per fortuna, speriamo l'esito non sia così grave, sono ore di grande angoscia, penso, per tutta la comunità, visto che parallelamente in questo periodo stiamo anche promuovendo la mobilità attiva dei bambini con i programmi di Bike to School, di Pedibus, quindi cerchiamo di lavorare sull'importanza che i bambini si spostino a piedi e in bici, e questi eventi sono tremendi perché rinnovano la paura che la strada non sia assolutamente il posto giusto dove un bambino si può muovere, ma questo è intollerabile. Tra l'altro sono appena usciti i dati dell'Osservatorio per l'Educazione alla Sicurezza Stradale che vedono una grande crescita anche di vittime sulla strada. Nei primi 5 mesi del 2021 si parla di 29 persone. 29 persone morte, di cui la metà automobilisti, l'altra metà parliamo di appunto pedoni, ciclisti e anche purtroppo qualche guidatore di automezzi, perché ricordiamo che anche la logistica su gomma fa delle vittime, perché guidare per tante ore spesso porta a situazioni di pericolo anche sull'autostrada. Qualche settimana fa è morto guidatore di un automezzo. La non sicurezza stradale, la violenza stradale continua a fare tante vittime. Le cause maggiori sono la distrazione alla guida a causa del telefonino e l'eccesso di velocità, spesso le due cose combinate insieme, e su questo ancora non si riesce a intervenire con un controllo della velocità puntuale e capillare che vada a cambiare le abitudini, perché c'è proprio l'abitudine di pigiare sull'acceleratore, non è spesso, diciamo, un comportamento intenzionalmente criminale, ma lo è nei fatti, e ancora si parla di autovelox come vessazione verso il cittadino invece che ragionare su un nuovo modo di guidare che salvaguardi tutti e che soprattutto non cambia assolutamente i tempi di percorrenza. Accelerare è una cattiva abitudine che non ti fa arrivare prima e ti fa mettere in pericolo te stesso e gli altri. Oltre alle autovelox, voi proponete altre misure per, come dire, contrastare gli incidenti? Sì, i rallentatori sono ormai diffusi, diciamo, capillarmente, ne esistono di tante tipologie diverse. Esistono i rialzi, che sono, diciamo, più adatti agli attraversamenti pedonali e ciclabili, esistono i dossi, che sono, diciamo, necessari nelle strade proprio dove si tende ad accelerare di più, esistono i cuscini berlinesi, che sono stati recentemente approvati anche dal Ministero, almeno nei sensi unici, che sono dei dossi, diciamo, che rimangono centrali nella strada e quindi che non interferiscono con gli autobus e con le ambulanze, che è un tema che spesso si pone rispetto ai dossi. Quindi, diciamo, le soluzioni tecniche ne esistono veramente tante, anche perché appunto la multa deve essere l'extrema ratio, ma prima dobbiamo fare campagne di sensibilizzazione, dobbiamo creare, diciamo, infrastrutture con moderazione del traffico. Per tanti anni abbiamo fatto delle zone 30 che erano soltanto dei cartelli senza molto altro, e sappiamo che non è sufficiente. Come si svolgerà il flash mob di domani? Domani alle 17:30, quello che noi ci siamo sentiti di lanciare è appunto un presidio in cui ci rimetteremo ad attraversare la strada. Per adesso ci sono tantissime adesioni, molti partecipanti, perché poi tutte le famiglie delle scuole vicine, ci sono le scuole Don Bosco nei pressi, hanno ovviamente molto sentito questo accadimento, perché è un attraversamento che è stato già ripetutamente segnalato dai cittadini come attraversamento dove mai le macchine si fermano a dare la precedenza a ciclisti e pedoni, perché è un attraversamento ciclopedonale, non solo pedonale, lo ricordo, perché ancora ho visto qualche polemica sull'attraversamento in bici delle strisce pedonali. Qui questo è un attraversamento ciclopedonale e ripetutamente segnalato. Purtroppo, come spesso accade, il comune ha risposto che non erano stati rilevati incidenti in quel punto e ha ritenuto di non intervenire con ulteriori interventi di moderazione del traffico. Ecco, l'incidente è arrivato, speriamo veramente che ci sia il lieto fine, ma ciò rimane che gli interventi andrebbero fatti prima degli incidenti, sulla base di fattori di rischio, come ad esempio monitoraggi di quanto si eccede nella velocità, monitoraggi di quanto non ci si ferma sulle strisce pedonali. Basterebbe fare queste valutazioni invece che aspettare l'incidente.